Il curato d'Ars confessore. Sulla strada di Ars. Per ben 30 anni un'ondata immensa di pellegrini si è riversata verso la chiesa di Ars, il cui pavimento, sotto il passo dei visitatori, si è consumato e levigato come le pietre contro le quali l'acqua del mare passa e ripassa incessantemente. Né si pensi che durante l'inverno, quando il freddo si fa sentire particolarmente intenso nella regione della Dombe, ci sia stata una sosta nei pellegrinaggi e minor numero di pellegrini rispetto alla stagione estiva. Nel periodo tra novembre e marzo il santo non faceva meno di 11 o 12 ore di confessionale al giorno. Caterina Lassagna ha scritto di lui: «Non lascerebbe mai la chiesa se non dopo di essere riuscito ad accontentare tutti». Anche uscendo porta il suo rocchetto, perché se entrasse in sagrestia per deporlo sarebbe subito circondato dalla folla che lo attende con impazienza per le confessioni. Sulle pagine manoscritte di Caterina Lassagne si leggono in margine queste parole scritte da Don Renard: «Il racconto è verissimo. Sono venuto ad Ars in primavera, in autunno ed anche in inverno e fui testimonio di tutto questo». Quando nel 1851, dice Don Dufour, missionario di Porten, io entrai per la prima volta nella chiesa di Ars, osservai due file di pellegrini dalla cappella della Santa Vergine a quella di San Giovanni Battista, e queste due file non le vidi mai interrotte. Il concorso dei pellegrini, ha poi precisato Giovanni Felice di Garez, fratello del sindaco di Ars, aumentò sempre dal 1830 al 1845, epoca in cui il pellegrinaggio giunse al suo massimo. In quel tempo arrivavano ad Ars 300-400 pellegrini ogni giorno. Alla stazione di Perrache, la più importante di Lione, rimaneva sempre aperto un ufficio per la distribuzione di biglietti per Ars. Tali biglietti erano valevoli per 8 giorni, perché tutti sapevano che ci voleva almeno tanto tempo per poter avvicinare il santo ed avere da lui una parola o l'assoluzione. L'incredulo, il quale ignora che la vera storia del mondo è quella della grazia di Dio in questo mondo, non comprenderà tale sollecitudini premurose. Questa folla era composta di anime che andavano ad ottenere il perdono dei loro peccati, a conoscere una religione più illuminata, a ricevere lo spirito di una più profonda abnegazione. La grande maggioranza dei visitatori vi era condotta dalla fede, dalla pietà e dal pentimento, ha detto Giovanni Felice di Garez, e se alla folla si univano dei curiosi, questi erano spesso guadagnati a Dio da un gesto, una lacrima, uno sguardo del santo. Fra la moltitudine vi erano persone di ogni età e di ogni condizione, vescovi, preti, religiosi, gesuiti e maristi soprattutto, cappuccini, francescani riformati, domenicani, nobili e plebei, ignoranti, sapienti, gente abituata a discutere sui gravi problemi ed anime sospinte unicamente dalla semplicità della propria fede. Tra costoro vidi intere famiglie di contadini giungere su rozzi carri dalle più lontane province, perfino dalle montagne d'Auvergne, per visitare il servo di Dio e fare le proprie devozioni nella chiesa di Ars. Dalle regioni vicine tutti accorrevano ad Ars a piedi, in vettura, per terra e per acqua. Francesco Pertinan, oste vetturale di Ars, ci dice che nel 1836 si organizzò un servizio di vetture tra Ars e Trevaux 3 volte per settimana e che questo servizio divenne quotidiano tra Ars e Lione nel 1840. Il signor di Castellane, sottoprefetto di Trevaux, scrisse in data 28 giugno 1855 che in quell'anno 2 carrozze omnibus facevano ogni giorno il servizio tra Ars e Lione. 2 altre erano in coincidenza 2 volte al giorno con la linea Parigi-Lione, passando per Villefranche. 1/5 vettura faceva il viaggio fra Villefranche e Villars, passando e fermandosi al luogo del pellegrinaggio. L'ultimo anno di vita del santo, 1858-1859, dice Francesco Pertinan, il numero dei pellegrini giunse a 80.000, contando solo coloro che nel viaggio si servivano di vetture pubbliche. Ritengo perciò che il numero totale dei pellegrini sia stato di 100 o 120.000. gli alloggi ad Ars. Il piccolo villaggio di Ars non si era sviluppato in proporzione all'estendersi della sua fama e la folla che là conveniva doveva quindi accontentarsi di alloggi di fortuna. È ben vero che 5 trattorie erano indicate col nome di hotel, ma non bastavano ad ospitare convenientemente 150 persone. Le altre cercavano rifugio presso famiglie private. Il canonico Camillo L'Enfant ha scritto: «Quando io vi giunsi, l'8 maggio 1845, tutti i posti d'albergo erano occupati ed ognuno dovette adattarsi meglio che poté. La provvidenza dispose che io trovassi posto presso la signorina Ricotier, donna di grande fede e semplicità, che col compenso di 2 franchi e 50 centesimi al giorno mi provvide di vitto e di alloggio e, data la modestia del compenso, mi servì bene». Nel maggio 1854 il vescovo di Birmingham ebbe notizia di penitenti che durante tutta la notte si fermavano sui prati in numero di oltre 50, sia per essere pronti a passare presto al confessionale, sia perché negli alberghi non vi era più posto. E le folle d'Ars non furono mai né irrequiete né tumultuose. Venute per contemplare un santo e confessarsi a lui, o per adempiere qualche voto fatto a Santa Filomena, non turbavano il raccoglimento fatto di attesa e di speranza che si stendeva sul villaggio privilegiato. Alcuni entravano nell'oscura borgata come si entra in un santuario. Molti si scoprivano e facevano il segno della croce quando da lungi scorgevano il campanile col suo caratteristico color mattone. Quantunque la chiesa si chiudesse solamente dalle 21 a mezzanotte, non era facile entrarvi appena giunti in Ars. Nel marzo 1859 Giorgio Seigneur, direttore del Curasè, dovette armarsi di grande pazienza e non giunse che lentamente e con fatica alla scalinata della porta maggiore. Vi erano là in piedi numerosi pellegrini, dall'antico cimitero fino alle vicine viuzze, che attendevano il loro turno. Alcuni comperavano medaglie e corone del rosario per farle benedire o candele da accendere davanti a Santa Filomena. Altri, nell'interminabile attesa, si consolavano guardando il ritratto del santo e parlando di lui ancora prima di averlo visto, come figliuoli che parlano del padre loro. Di ritratti di Don Vianney ve n'erano ovunque esposti, nelle vetrine delle botteghe, sui muri del cimitero, nei panieri degli ambulanti che facevano buoni affari vendendo oggetti di devozione ai pellegrini. E ve n'erano ad ogni formato, dalla piccola immagine destinata al libro di pietà al disegno a formato grande coi colori vivaci, in cui già si rappresentavano diversi episodi della vita del santo. Si trattava comunque di effigie approssimative, perché Don Vianney si era sempre rifiutato di posare per il fotografo. Malgrado il particolare fosse risaputo, ogni visitatore voleva un ritratto del santo, come prezioso ricordo del suo pellegrinaggio. L'interminabile attesa. Per quanto lunga fosse l'attesa dei pellegrini prima di poter avere un posto nella chiesa, salvo qualche rara eccezione, i forestieri non si scoraggiavano. Si voleva udire il santo ad ogni costo e quasi per tutti il movente principale od unico del pellegrinaggio era quello di aprire a lui il proprio cuore nel segreto della confessione. Cominciava allora una nuova attesa. Non dobbiamo dimenticare che Don Vianney non dava alla confessione che il tempo strettamente necessario, e nelle lunghe giornate confessava anche per 18 ore. Nonostante questo, negli ultimi 10 anni della sua vita, i pellegrini dovettero attendere qualche volta anche 30, 50, 70 ore prima di poterlo avvicinare. Più di una volta si sono pagati dei poveri perché tenessero occupato il posto, ma non tutti potevano fare altrettanto. Era quindi necessario rimanere di continuo nella chiesa, che d'estate era un forno e d'inverno una ghiacciaia. Coloro che desideravano allontanarsi senza perdere il proprio posto si accordavano coi vicini o coi custodi della chiesa. Venuta la notte era necessario uscire perché la chiesa si chiudeva. I pellegrini allora si contavano per non perdere il proprio posto e andavano fuori o nel vestibolo del campanile in attesa che Don Vianney si alzasse. Sofia Gross di Besançon in tarda età ricordava che la sua domestica, Clementina Vinay, nel luglio 1853 aveva dovuto aspettare 2 giorni col paniere delle provviste sotto braccio prima di potersi presentare al confessionale. Nel 1855 la giovane Luigia d'Ortan, dell'ospedale di Puy-de-Dôme, entrata poi in religione col nome di Suor Maria di Gesù, era venuta ad Ars per consultare Don Vianney sulla sua vocazione e dovette attendere 3 giorni interi. Infine, non potendo prolungare la sua sosta, né avendo speranza di giungere al confessionale, con le lacrime agli occhi si disponeva a partire, quando il curato, uscito dalla cappella di San Giovanni Battista, la chiamò. «Non siete molto paziente. Non sono ancora 3 giorni che siete qui e già volete partire. Bisogna aspettare 15 giorni. Andate a pregare Santa Filomena che vi riveli la vostra vocazione e in seguito venite». La giovane non si pentì di aver seguito il consiglio. Al mattino, verso le 9, Don Vianney riservava un po' di tempo per ascoltare i preti e i religiosi che abitualmente confessava dietro l'altare maggiore. Si è visto un vescovo, quello diocesano, attendere il suo turno come gli altri. Qualche volta parve che il santo fosse al termine delle sue fatiche e potesse riposarsi un momento, ma fu sempre vana speranza. Una sera del maggio 1853, 3 religiose ed una signora in lutto per la perdita del marito discendevano dalla carrozza di Francesco Pertinan e si affrettavano a raggiungere la scalinata della chiesa. Era il momento in cui il curato usciva dal suo confessionale dopo di aver ascoltato l'ultima penitente e la chiesa si faceva deserta. La signora in lutto si presentò al santo, che fu subito pronto ad ascoltarla. «Volete anche voi avvicinare il curato finché è libero?» domandò qualcuno alle religiose. «No, domani, perché ora dobbiamo andare a cercare il nostro alloggio», risposero. «Ah, domani», si sentirono dire, «domani potrebbe non essere come oggi». Difatti, ha raccontato una di queste religiose, Suor Dositea della Provvidenza di Vitteux, «ci fu il giorno dopo una tale affluenza di pellegrini che mi sentivo portare di peso verso il confessionale. Infine, potei parlare a Don Vianney che, sapendomi ammalata, era etica e soffriva enormemente, mi chiamò prima del mio turno. Chiamate di favore. Assiso al suo tribunale di misericordia, non faceva preferenze per nessuno, fatta eccezione per i suoi parrocchiani, gli ammalati e quei penitenti che non potevano aspettare a lungo. Per riconoscere costoro era dotato di un meraviglioso dono di intuizione. Udii raccontare da molti pellegrini di Ars, disse Don Claudio Rougemont, vicario in Ars nel 1871, che il curato li aveva scoperti fra la folla e chiamati o al confessionale o in sagrestia, perché anche senza averli visti precedentemente di persona, aveva intuito la loro urgenza di parlargli. L'ascendente del santo curato era tale che di rado si udivano dei lamenti per queste chiamate di favore. Fratello Atanasio, che si era fatto il portavoce di qualche malcontento, si sentì rispondere: «Sia pure che mi si accusi di fare preferenze per alcuni pellegrini, ma è ben giusto che io tenga conto della pena che si danno per arrivare fin qui e delle spese che per questo devono sopportare. Ve ne sono di quelli che vengono di nascosto e non vogliono essere conosciuti. Questi hanno fretta di partire». Una madre di 16 figli aveva appena potuto trovare posto nella navata, quando il santo, uscito dal suo confessionale, la chiamò indicandola con il dito. «Voi, signora, avete fretta, venite subito». Nel 1833 Margherita e Humbert d'Écouly, passata a nozze col signor Fayol, fece visita a suo cugino con il quale non si incontrava da 15 anni. Il santo stesso, riconoscente per i benefici da lei ricevuti al tempo dei suoi studi, aveva pregato le direttrici della provvidenza di usarle particolare riguardo. «Prima di partire», ha raccontato ella, «entrata nella chiesa stavo pensando di confessarmi da mio cugino, quando mi vennero a dire che egli mi attendeva. Ne fui meravigliata, perché egli non poteva vedere dove io fossi. Mi allontanai poi da Ars, colma di gaudio interiore». «Un giorno», ha detto il buon Oriol, «il servo di Dio confessava in sagrestia, quando improvvisamente apparve sulla porta e mi disse: "Fate subito venire una signora che sta in fondo alla chiesa", ed aggiunse in qual modo avrei potuto riconoscerla. Io non trovai questa persona al luogo indicato e riferì al curato. "Andate subito", mi rispose, "si trova davanti alla casa tale". E andai di corsa e trovai questa signora che si allontanava desolato di non poter attendere più a lungo. Una povera donna che per timidezza più di una volta aveva perduto il proprio posto si trovava ad Ars da 8 giorni, senza aver potuto ancora avvicinare Don Vianney. Infine il santo la chiamò, o meglio andò a cercarla, e la condusse, passando in mezzo alla folla, fino alla cappella di San Giovanni Battista. Ben contenta, non lasciava il lembo della di lui veste, affrettandosi nel passaggio che le si apriva. Il servo di Dio conosceva per esperienza che la grazia ha i suoi momenti e che può passare senza frutto, senza più farsi sentire, e quindi, secondo le occasioni, prendeva le anime al volo. Nel 1853 andò in pellegrinaggio ad Ars un allegro gruppo di abitanti di Lione. Erano tutti buoni cristiani, ad eccezione di un vecchio che si era unito alla comitiva unicamente per non rifiutare l'invito dei giovani. Verso le 3 del pomeriggio, quando arrivarono ad Ars, il vecchio incredulo, discendendo dalla sua vettura, disse: «Se volete, andate pure in chiesa, io vado a comandare il pranzo». Allontanatosi di pochi passi, d'un tratto si ferma e dice: «Tutto considerato, vengo anch'io con voi, non ci vorrà molto tempo». Entrarono in chiesa nel momento in cui Don Vianney usciva dalla sagrestia per passare nel coro. Il santo si inginocchiò ed, alzatosi, diresse il suo sguardo sulla folla, quasi cercando qualcuno nella direzione delle acquasantiere. Quindi fece un gesto di invito. «Chiama voi», si disse all'incredulo stupito. Questi, pieno di confusione, seguì il curato, ci ha detto la religiosa alla quale dobbiamo questo racconto, mentre noi eravamo ben sicuri che non poteva più sottrarsi all'influenza del santo. Don Vianney, prendendogli la mano, gli disse: «È da tanto tempo che non vi confessate? Signor curato, sarà presso a poco 30 anni, almeno credo, 30 anni. Pensate bene, sono 33, vi siete confessato nella tale circostanza?» «È vero, signor curato. Perciò vi confessate adesso, non è vero?» Il vecchio affermò poi che a quell'invito non aveva potuto rifiutarsi e aggiunse: «Provai subito un benessere inenarrabile. La confessione durò 20 minuti e lo trasformò». È tipico il modo col quale egli riuscì a convertire un altro peccatore. Nel 1840 il signor Rochette condusse al santo un suo figlio infermo. Con lui era anche sua moglie, che ad Ars si confessò e si comunicò. Il padre invece non aveva che una preoccupazione: ottenere la guarigione del figlio. Fece qualche visita alla chiesa, s'addentrò di pochi passi nella navata ed era ancora là quando il santo, che confessava i sacerdoti dietro l'altare, comparve presso la balaustra e lo chiamò. Egli non si mosse. «E dunque così incredulo?» domandò il curato alla donna che in quel momento stava col figlio vicino all'altare. Al terzo richiamo egli si decise ad avvicinarsi. Dopotutto, pensava, non mi mangerà. E lo seguì dietro all'altare. Il santo, che non aveva tempo da perdere, lo apostrofò mostrandogli il confessionale. «A noi dunque, signor Rochette, mettetevi là». «Ma io non mi sento». «Provate». Incapace di resistere all'invito, quell'uomo si inginocchiò e cominciò balbettando: «Padre, è già da un po' di tempo che non mi confesso più. È da circa 10 anni. Mettete anche un po' di più, circa 12 anni. Un po' di più ancora. Sì, è dal giubileo del 1826. Eccoci dunque, chi cerca trova». E il signor Rochette si confessò come un fanciullo e il giorno dopo fece la comunione accanto alla moglie. Il figlio, aggiunge il racconto fedele, lasciò nella chiesa di Ars le sue grucce, diventate inutili. Ars, via di Damasco. Per tante anime la via di Ars fu la via di Damasco, ma non si creda che per convertire le anime il santo abbia usato qualche cosa di più che le sue preghiere e le sue penitenze. Dapprima era la sua predicazione ardente che penetrava fino al cuore, poi, quando aveva le anime vicino a sé nel confessionale, gli bastavano poche parole per portare il colpo che nel medesimo tempo abbatte ed eleva. Tranne nei casi eccezionali, come quando si trattava di confessioni generali, era molto breve ed altrettanto esigeva facessero i penitenti. «In 5 minuti ho versato la mia anima nella sua, ha detto il Picombalot uscendo dal confessionale di Don Vianney, e non risparmiava ai penitenti per vani timori le osservazioni ritenute opportune. Collocato dalla sua grande fede al di sopra di ogni timore umano e tutto aspettando da Dio, al momento giusto sapeva dire a chiunque quando fosse stato necessario: «Questo non è lecito!» Quante cosciente trapassate dalla spada della sua parola hanno lasciato sfuggire il veleno nascosto che le guastava. Aveva per ogni occasione la parola propizia e ben di rado falliva il suo scopo. «Pazienza, se il Signore non fosse così buono», gemeva, «ma egli è tanto buono». Oppure «salvate la vostra povera anima, quale danno perdere un'anima che è tanto costata a nostro Signore? Cosa vi ha fatto di male il Signore per trattarlo in questo modo?» «Ahimè», diceva il santo confessore al signor Valpinzon, negoziante di Fermasè, «voi avete un vizio che vi condurrà alla dannazione, ed è l'orgoglio». Il penitente lo riconobbe e si fece riflessivo. Quella parola aveva cambiato la sua anima, rendendolo un cristiano umile e mite. Egli stesso non rievocava mai i ricordi di Ars senza commuoversi fino alle lacrime. Spesso, per scuotere i grandi peccatori, diceva ad essi questa parola semplice ma terribile quando esce dalle labbra di un santo che sa leggere nell'avvenire: «Amico mio, voi siete dannato». E questa parola, molto breve, valeva più che un lungo discorso. Senza dubbio il santo voleva parlare in modo condizionale: «Se voi non evitate la tale occasione, se rimanete con quella abitudine, se non seguite il tale consiglio, voi sarete dannato». Ma anche per queste parole semplici, quale impressione! «Io dannato, io maledetto da Dio, e questo per sempre», ripeteva uscendo dal confessionale Francesco Bourdain di Villebois nell'Ain. Nel 1856, causa i cattivi affari, quest'uomo, che aveva allora 35 anni, si era ritirato in preda alla disperazione presso suo suocero Adam Boutric, nel tempo in cui si predicava ivi una missione. Francesco Bourdain si oppose a tutte le istanze dei suoi familiari, che desideravano vederlo ascoltare la predicazione. Sebbene lo tormentassero sentimenti di disperazione che lo allontanavano da Dio, non aveva perduto la fede e finalmente la grazia lo vinse. «Voglio confessarmi», dichiarò, «ma al grande confessore, al curato d'Ars». E per incoraggiamento, dopo il racconto delle sue miserie e delle sue colpe, intese queste spaventevoli parole: «Mio giovane, voi siete dannato». Questa minaccia gettò un lampo di luce nella sua anima, lo convertì e fece di lui fino alla morte un fervente cristiano. Parole che sollevano e lacrime che convertono. Anche la direzione delle anime pie in generale non costava a lui molte parole. Piuttosto le poche che usava erano dardi infuocati, penetravano nel cuore per sempre. «Amate molto i vostri preti», diceva un giorno al suo vescovo Monsignor di Langalerie, inginocchiato ai suoi piedi. «Ho fatto questo con un po' di negligenza», gli confidava fratello Atanasio, «ma in fondo ho buona volontà». «Oh, amico mio, le buone volontà sono il pavimento dell'inferno», e non aggiunse altro. Frate Amedeo, futuro superiore generale dei frati della Sacra Famiglia, aveva finito la sua confessione. «Amate, amate molto il buon Dio», gli disse Don Vianney, congiungendo le mani, e gli diede l'assoluzione. «Mi ha confessato due volte», ha detto Don Monnin. Ogni accusa strappava a lui un grido di fede, di commiserazione e di orrore anche per le minime mancanze. Che se dommage, questa parola mi ha colpito soprattutto per l'accento di tenerezza con il quale era pronunciata. Nella sua brevità diceva tutto il torto fatto alla sua anima. Don Denis, quiescente a Neville-sur-Saône, si era aperto al santo confessore e ha detto: «Era molto breve, una parola di esortazione e tutto era finito». Era la santità stessa del curato d'Ars che dava alla sua parola tanta efficacia. Sulla bocca di altri tali espressioni sarebbero passate per luoghi comuni, ma con quale accento venivano proferite? Inoltre, del curato d'Ars vi era un'altra cosa ancor più irresistibile che le parole, ed erano le lacrime. egli giunse talvolta a spezzare anche cuori induriti, solo indicando, mentre piangeva, un crocifisso appeso alla parete. Dal suo confessionale si udivano ogni tanto sospiri irrefrenabili che gli sfuggivano e che facevano nascere nei penitenti sentimenti di dolore e di amore. Un giorno, racconta Don Dubois, parroco di Farens, alcuni sacerdoti di una vicina diocesi criticavano qualche direzione del sacerdote d'Ars. A questa conversazione partecipava un giudice di pace, antico penitente del santo, il quale disse: «Ciò che io posso assicurarvi, signori, è che Don Vianney piange e che si piange con lui, ciò che non succede ovunque». «Perché piangete tanto, padre mio?» chiedeva un giorno un penitente inginocchiato ai suoi piedi. «Amico mio, io piango perché voi non piangete abbastanza». Un altro confessore, il padre Cirillo Fevre, ha detto: «Alcuni convertiti mi hanno confessato che vedere il servo di Dio piangere sui loro peccati era stata la cosa che li aveva impressionati di più». Nessuna meraviglia, quindi, se i penitenti, uomini e donne, lasciavano talvolta il suo confessionale con gli occhi umidi di lacrime ed anche con manifestazioni di vivissimo dolore. In un angolo della sagrestia si conserva ancora oggi la sedia rozza con la spalliera alta sulla quale il santo si sedeva per ascoltare le confessioni degli uomini. Quest'umile cantuccio fu testimonio di scene commoventi, in quanto fu forse là che avvennero le migliori conversioni. Monsignor De Vie ha detto bene che il curato d'Ars aveva ricevuto da Dio il dono particolare di convertire gli uomini. Questi, per attendere il loro turno, si collocavano più vicino che fosse possibile alla sagrestia o anche nel coro, dove erano i banchi riservati ad essi. Non si sono mai presentati in così grande numero come le donne e quindi non dovettero mai attendere come quelle. Qualche volta però anche essi furono costretti a rimanere in chiesa lunghe ore. Il sagrestano, fratello Girolamo, ci dice fratello Atanasio, ne contò fino a 72 in una volta, ed io stesso ne vidi uno attendere il suo turno dalle 5 del mattino alle 5 della sera. Fra le donne vi erano delle custodi incaricate della sorveglianza fra le penitenti. Ed anche fra gli uomini vi era un servizio d'ordine che non fu mai interrotto, grazie alla buona volontà di persone generose. I signori Tebre, Oriol, Paget, Viret ed altri ancora, buoni cristiani e senza impegni personali, vi stavano dalle 7 del mattino fino alla sera. Uno si collocava fra gli inginocchiatoi vicino alla porta per manovrare la spranga di ferro che sbarrava il passaggio, e quando usciva un penitente ne introduceva un altro. Attualmente, sulla volta della Basilica, vi è un affresco che in modo molto efficace rappresenta i giorni ormai lontani nei quali, in quel cantuccio oscuro, la grazia divina operò così meravigliosamente. Uomini di ogni condizione sono venuti da tutti i distretti di Francia portando nelle pieghe dei loro abiti la polvere di un lungo viaggio. Alcuni al tocco della grazia, come facilmente si immagina, erano pronti a tutte le confidenze e a tutte le riparazioni. Altri, invece, là condotti dai rimorsi e dalle preghiere insistenti di una sposa o di una figlia amata, mantenevano l'esitazione, resistevano e si trovavano sul punto di riprendere di nuovo la via del peccato. Tra essi vi fu un libertino, venuto su malgrado, che arrivando alla chiesa si augurava di trovare morto Don Vianney. Ma ecco che improvvisamente allo spiraglio della porta che gli metteva paura si affaccia una figura bianca, un vegliardo sparuto, consumato dalla penitenza. Egli gira su coloro che attendono uno sguardo in cui sembra essere concentrata tutta la sua vita e sceglie l'anima sulla quale fra breve discenderà il perdono di Dio. Quell'uomo si alza e la porta, chiudendosi, nasconde lui e il servo di Dio. Quando si riapre, egli non è più il medesimo peccatore, ma un convertito il cui petto è scosso dai singhiozzi. Ritornato a Dio, corre a gettarsi ai piedi di Nostra Signora d'Ars, che gli tende le braccia. Il miracolo per eccellenza, la conversione dei peccatori. Fu scritto che il grande miracolo del curato d'Ars fu il suo confessionale, assediato giorno e notte, Con eguale verità si potrebbe anche aggiungere che il suo miracolo per eccellenza fu la conversione dei peccatori. «Ne vidi operarsi molte ed alcune meravigliose», ha detto Don Raimond, «e questo è il capitolo più bello della vita del santo». «Amico mio», mi diceva spesso, «solamente il giorno del giudizio si vedrà quante anime hanno trovato qui la loro salvezza». Gianna Maria Chanet ha detto che Don Vianney non era molto sensibile ai miracoli di guarigione. «Il corpo è sì poca cosa», ripeteva. «Ciò che veramente lo riempiva di gioia era il ritorno dei peccatori a Dio, e non gli mancarono le occasioni di provare questa gioia. Gli domandai un giorno», dice il conte di Garez, «quanti peccatori straordinari avesse convertito durante l'anno». «Più di 700», mi rispose. Meditando questo, si capisce il senso di un desiderio manifestato da un sacerdote venuto in pellegrinaggio. «I miei parrocchiani, che si confessano da Don Vianney, diventano cristiani modello. Vorrei potergli condurre l'intera parrocchia». Il curato d'Ars, secondo la testimonianza di Don Tocanier, aveva un'inclinazione speciale verso i poveri peccatori. Li amava di tanto amore quanto grande era il suo odio verso il peccato. Detestava il male e ne parlava con orrore ed indignazione, ma sentiva per i colpevoli una compassione immensa e i suoi gemiti per la perdita delle anime spezzavano il cuore. «Mio Dio», sospirava nella sua camera un giorno della Quaresima del 1841, «mio Dio, è possibile che abbiate sofferto tanti tormenti per salvarli e che ciò nonostante si dannino?» E nei suoi sermoni aggiungeva: «Quale dolore pensare che vi sono degli uomini che moriranno senza amare Dio!» Ogni sera durante la preghiera gli veniva meno la voce per la commozione quando recitava la frase: «Mio Dio, che non volete che il peccatore perisca?» «Ah, i poveri peccatori!» E si doveva udire il tono con cui pronunciava queste parole: «Se almeno potessi confessarmi per essi!» La contessa di Garez, tremante, lo intese un giorno scongiurare dal pulpito quegli uditori che volevano andare all'inferno, affinché facessero il minor numero possibile di peccati per non aumentare i loro eterni tormenti. «Fino al termine della mia vita», aggiunge la pia nobildonna, «io ricorderò la descrizione del giudizio finale in cui ripeteva più riprese: maledetto da Dio, maledetto da Dio, quale sciagura, quale sciagura!» Non erano più parole, erano singhiozzi che strappavano le lacrime a quanti lo ascoltavano. I poveri peccatori. Quando uno di loro si ostinava nell'errore, il santo raddoppiava le preghiere e le penitenze. «Io non sto bene», diceva scherzosamente, «che quando prego per i peccatori». All'avvicinarsi delle grandi feste, soprattutto del periodo pasquale, si mortificava anche con digiuni straordinari. Fu certo il suo zelo per la salute di tante anime colpevoli che gli hanno fatto abbracciare durante tutta una lunga vita un ministero opprimente, senza interruzione, senza riguardi, senza alcuna sorta di sollievo, che lo ha fatto alzare a mezzanotte o a l'una del mattino ed uscire di chiesa molto tardi, che lo ha condannato ad una privazione quasi totale del sonno e che tuttavia lo ha mantenuto in una pazienza inalterata, fra le più snervanti importunità. Così si esprime il conte di Garez. Tuttavia, la dolcezza con cui il santo accoglieva i poveri peccatori non aveva alcunché di debolezza. Non dava la soluzione se non si era assicurato della sincerità del penitente. Non vi è dubbio che fino al 1840 egli fu un rigorista, come lo si era a quei tempi nella maggior parte dei confessionali in Francia, in omaggio ai principi imparati nel 1815 nel seminario maggiore di Lione. Dopo il 1840, per le conversazioni avute con Don Dailades, sacerdote pio e portato alla clemenza, e per i consigli ricevuti da Don Camelet, superiore dei missionari diocesani, il quale, predicando in quelle regioni, aveva acquistato una profonda conoscenza delle anime, e più ancora, grazie allo studio della teologia di Sant'Alfonso, allora divulgata in francese per opera del cardinale Gusset, il curato d'Ars visibilmente si mostrò meno severo. E tranne in casi eccezionali, secondo la testimonianza dei contemporanei, non lo si vide più chiamare al confessionale il medesimo peccatore fino a 5, 6 o 7 volte. In più, tante confessioni ricevute gli avevano mostrato la miseria dell'uomo, della quale aveva sentito una profonda pietà, mentre si persuadeva che bisogna essere soprattutto caritatevoli. Quando si avanza nell'età, diceva il santo cardinale Richard, non ci si fa più la medesima idea della virtù di quando si era giovani. Tuttavia, fino alla morte, prima di assolvere un penitente inveterato, Don Vianney esigeva indizi sufficienti di conversione, e quelli che non volevano abbandonare uno stato di dannazione, secondo la parola di un sacerdote, lo trovavano inflessibile. Imponeva rigorosamente i sacrifici necessari. Ad una signora di Parigi ordinò di bruciare tutti i libri cattivi della sua biblioteca, altrimenti non le avrebbe impartito l'assoluzione. Un'altra donna di Parigi, in villeggiatura nel mezzogiorno, seguendo il consiglio di un ecclesiastico che conosceva la sua vita di disordine, nel ritorno passò per Ars. Vedrete là qualche cosa di straordinario, un curato di campagna che riempie il mondo del suo nome. Non rimpiangerete certo di aver interrotto per un momento il vostro viaggio. Questa predizione si avverò in modo strano. In un pomeriggio questa signora passeggiava sulla piazza con una sconosciuta incontrata per caso. Il curato, di ritorno dalla visita di un ammalato, la vide e le rivolse immediatamente la parola. «Voi, signora, seguitemi», e rivoltosi all'altra. «Voi potete ritirarvi, non avete bisogno del mio ministero». Prese a parte la peccatrice e rivelò a questa novella samaritana tutte le sue turpitudini. Fulminata a questa improvvisa rivelazione, rimase un momento silenziosa, poi rispose: «Signor curato, volete ascoltare la mia confessione?» «La vostra confessione», replicò il santo, «sarebbe inutile. Io leggo nella vostra anima e vi vedo due demoni che la tengono in catene. Il demonio dell'orgoglio e quello dell'impurità. Io non vi posso assolvere se ritornate a Parigi. Conosco anche le vostre disposizioni e so che vi ritornerete». Poi, per una visione profetica, l'uomo di Dio le fece conoscere come ella sarebbe discesa fino agli ultimi abissi del male. «Ma, reverendo, io sono incapace di commettere simili azioni. Volete dire che sono dannata?» «Non dico questo, ma come sarà poi penoso per voi il salvarvi?» «E che cosa devo dunque fare?» «Venite domani mattina e ve lo dirò». La notte seguente, per riuscire a salvare un'anima che Dio aveva creato per le altezze dello spirito e che si seppelliva nel fango, il curato d'Ars pregò lungamente e si inflisse una sanguinosa disciplina. Al mattino, procurando una chiamata di favore a questa penitente non comune, le diede la seguente risposta: «Vostro malgrado lascerete Parigi e ritornerete alla casa del paese donde venite. Là, se volete salvare la vostra povera anima, farete queste mortificazioni», e le suggerì quali. La donna ripartì da Ars non ancora assolta. Parigi la riebbe per un momento, ed ella vide con terrore che sotto i suoi passi si era riaperto l'abisso del peccato. Nauseata dalla sua colpa, fuggì per nascondersi nella sua villa sul Mediterraneo, ove, malgrado la sua natura corrotta da passioni troppo lungamente soddisfatte, risolvette di mettersi sulla buona via. Ricordò i consigli del curato d'Ars ed una grazia misteriosa e potente l'aiutò a seguirli. Don Vianney aveva detto: «Non è che il primo passo che costa nella via dell'abnegazione. Quando vi si è entrati, tutto procede da sé». In capo a 3 mesi, scrive il canonico Ball, che ha raccolto gli elementi di questa storia, la sua conversione fu così completa e le sue disposizioni di spirito e di cuore così mutate che ella non comprendeva più come avesse potuto amare ciò che ora le faceva tanto orrore. Quando il curato d'Ars aveva ottenuto dai penitenti segni sicuri della correzione, si mostrava di un'estrema benignità nell'applicazione della penitenza sacramentale. «Mi si fa un rimprovero per la mia indulgenza», diceva al fratello Atanasio. «Ma come posso essere severo con persone che vengono così da lontano e che si sono imposti tanti sacrifici per giungere fino ad Ars? Io li scoraggerei imponendo penitenze più pesanti. Ma come tenere il giusto mezzo in questa materia?» gli domandava uno dei suoi confratelli. «Amico mio», rispose il santo, «ecco la mia ricetta. Do loro una piccola penitenza ed il resto lo faccio io». Il significato di queste parole non è oscuro. Tuttavia Don Vianney non dimenticava che la penitenza sacramentale deve essere medicinale, anzi qui aveva occasione di rivelarsi la grande abilità del santo che sapeva indovinare il punto sensibile. Si doveva espiare la tale colpa, correggersi del tale difetto, sapeva suggerire l'appropriata espiazione. Per giovani capaci di grandi virtù, la vanità od un incosciente orgoglio potevano essere di ostacolo alla perfezione, e con costoro il santo sacerdote lavorava a distruggere le ultime appendici dell'amor proprio. La giovane Carolina Lioger di Lione, futura fondatrice delle suore vittime del Sacro Cuore col nome di Madre Maria Veronica, fece per parecchi anni di seguito, insieme a sua madre, un soggiorno ad Ars. Ora, Don Vianney, che voleva formare questa giovane per il compimento di grandi disegni, si compiacque di provare la sua umiltà e lo fece senza riguardi, fino al punto di comandarle di mettersi in ginocchio sulla soglia della chiesa con le braccia incrociate mentre i fedeli uscivano dalla messa. In generale, gli uomini peccano per rispetto umano e il curato d'Ars li obbligava dopo la confessione a pregare pubblicamente. Come era commovente, scrive Don Raymond, vedere questi uomini dai capelli bianchi, che da tempo avevano disertato la chiesa, trascurata la preghiera e la devozione alla Vergine, tenere fieramente il rosario in mano e recitarlo con fervore. Nessuno di loro poté resistere alle ingiunzioni del santo che comandava a tutti di portare con sé la corona e di adoperarla. Invano gli obiettavano che non ne conoscevano più l'uso. «Amico mio», rispondeva Don Vianney, «un buon cristiano è sempre munito della sua corona. Io non la lascio mai. Compratene una ed io le applicherò le indulgenze delle quali avete così grande bisogno per supplire ad una troppo debole penitenza». Nella maggior parte dei casi agli uomini faceva dono di una corona e tutti l'accettavano come un prezioso ricordo. Racconti di conversioni. «Abitate nella vostra città natale?» domandava il curato d'Ars al signor Giorgio L., giovane mondano di 26 anni, quando ebbe finito la sua confessione. «Sì, padre mio. Quale ne è la popolazione? 25.000 abitanti. Vi conoscono? Molto bene, e quasi tutti. Ebbene, figlio mio, per vostra penitenza voi direte prima di lasciare questa chiesa gli atti di fede, speranza e carità. Ma questo non è tutto. Voi assisterete in una delle due domeniche del Corpus Domini, nella vostra città natale, alla processione del Santissimo Sacramento, avendo cura di collocarvi immediatamente dopo il baldacchino. Andate, figlio mio». Il giovane non osò ribellarsi, perché la sorpresa e l'emozione gli chiusero la bocca. Il rispetto umano lo tormentava, ma egli era credente e quella era la sua penitenza. La prima domenica del Corpus Domini rimise la penitenza alla seconda domenica. Arrivata la seconda, la pioggia, tanto desiderata da lui per quel giorno, non venne e dovette adattarsi. «Vivessi 100 anni», disse in seguito, «non dimenticherò mai le 2 ore passate dietro il baldacchino. La mia fronte grondava di freddo sudore e le mie gambe si piegavano. Di volta in volta faceva appello alla mia fede e mi sforzavo di pregare. Solo le labbra pronunciavano le parole liturgiche». Ma quest'atto di coraggio lo aveva segnalato all'attenzione dei suoi concittadini cattolici. 2 anni più tardi, divenuto cristiano senza paura, si trovava a capo di una conferenza di San Vincenzo dei Paoli che riuniva 30 giovani trascinati dal suo esempio. Sarebbe stato troppo bello, considerata l'umana debolezza, se tutti gli antichi penitenti di Don Vianney avessero perseverato come quel giovane. Si può tuttavia presumere che nella maggior parte di essi l'impressione fosse così viva e l'azione della grazia così forte da renderli fedeli al loro dovere. Certamente il santo trionfò in casi difficilissimi, ottenendo esempi di perseveranza sui quali non si può abitualmente fare assegnamento. Il direttore del seminario maggiore di Brou, Don Niermont, mi pregò un giorno, racconta Don Docanier, di domandare al curato se non avesse mai convertito un ubriacone. Feci la mia commissione in sagrestia alla presenza di parecchi testimoni ed ecco la risposta ricevuta. «Sì, amico mio, recentemente una donna è venuta a ringraziarmene dicendo: Fino a questi ultimi tempi io ero ben infelice con il mio povero marito, dal quale avevo ricevuto più busse che pezzi di pane. Ebbene, dopo che vi ha visto, è diventato come un agnello. Un vicario che era presente raccontò a sua volta che egli pure conosceva un esempio simile. Un uomo della sua parrocchia, già dedito all'ubriachezza, dopo il suo pellegrinaggio ad Ars, aveva usato un mezzo eroico per correggersi. Andava alla messa facendo un lungo giro per evitare le osterie, la vicinanza delle quali era per lui una tentazione troppo forte. Un incorreggibile bevitore di Chalain, mia antica parrocchia, così riferiva al processo Monsignor Mervaud, allora parroco di Gex, fu convertito da Don Vianney. Durante i 3 anni che visse ancora, quest'uomo non trangugiò più una goccia di vino e condusse una vita esemplare. Cosa strana, questo buon cristiano venne un giorno a trovarmi in canonica. Sembrava in buone condizioni di salute e tuttavia voleva confessarsi perché diceva che presto sarebbe morto. Per la sua insistenza gli diedi l'assoluzione e la comunione. Un'ora dopo era morto. Si videro ancora, grazie al curato d'Ars, matrimoni disuniti rinnovarsi nella concordia, scettici orgogliosi diventare umili credenti, libertini convertirsi e persino scegliere la pacifica solitudine dei chiostri. Un architetto di Lione riceveva spesso dalla sua sposa troppo giusti rimproveri. Un mattino, dopo una violenta scena, il marito colpevole gridò: «Non mi rivedrai mai più!» Sbatté la porta dietro di sé ed uscì sulla piazza, dove vide ferma una carrozza che portava la scritta «Correspondance d'Ars». «Che paese è questo?» domandò egli a un passante. «Ars», gli spiegò quelli, «è un villaggio d'Allain, dove si va a visitare un prete straordinario». Per bisogno di cambiare aria e per calmare i suoi nervi, ma più ancora per curiosità, il lionese prese posto sulla vettura che partì quasi subito. L'orario di partenza era fissato in modo che si potesse arrivare al villaggio poco prima della predica delle ore 11. L'architetto poté entrare nella chiesa di Ars, dove vide e udì il santo. Quando uscì, sconvolto per quanto aveva visto ed udito, incontrò Don Toccanier e gli disse: «Signore, questo prete è così pervaso d'amore di Dio e le sue parole sono così ardenti che se io l'ascolto ancora una volta finisco per cedere come gli altri». Il buon missionario gli rispose di non vedere alcun inconveniente in questo. Anzi, al contrario, nel pomeriggio quest'uomo prendeva posto fra i penitenti del santo. Uscito dalla sagrestia, trasformato come il più felice dei mortali, ritornò a Lione e si gettò come il figliol prodigo nelle braccia di colei che non avrebbe dovuto mai più rivederlo. Difatti non era più lo stesso di prima. 12 o 15 anni prima, non vi era ancora Don Toccanier ad Ars, un'altra conversione aveva fatto grande rumore a Lione. Il signor Maissiat, professore di disegno alla scuola di arti e mestieri e distinto geologo, amava anche dirsi filosofo, per significare che egli non credeva che nella ragione. Dopo aver fatto la sua prima comunione all'epoca del terrore, aveva abbandonato il cattolicesimo per diventare nelle diverse fasi della sua vita musulmano, giudeo, protestante, spiritista, sansimoniano ed infine comunista. La sua vita era un vero romanzo. Un giorno, nel giugno 1841, il filosofo lasciava Lione per una escursione di un mese sulle montagne del Beaujolais e nella vettura di Villefranche-sur-Saône trovò un vecchio amico che da questa città si stava recando ad Ars. «Venite con me», gli disse l'amico, «voi vedrete un prete che fa miracoli». «Miracoli», dice il geologo con disprezzo, «non ci credo». «Venite», vi dico, «vedrete e crederete». «Ebbene sia, vada per una passeggiata ad Ars». E giocando sulle parole aggiunse: «Ars è una parola che mi piace, perché io sono artista». Il mattino seguente il signor Maissiat assisteva con curiosità alla messa del curato d'Ars. Il santo fissò lo scettico andando dalla sagrestia all'altare ed a messa finita andò da lui, gli pose sulla spalla la mano scarna e gli indicò di seguirlo. Il filosofo, entrando in sagrestia, vide il confessionale, ma osservato il gesto che lo invitava ad inginocchiarsi, si oppose. Ah, questo no. Don Vianney non cessava di osservarlo ed infine quell'uomo finì per cedere. Che importa dopo tutto, pensava. Trovandosi solo col sacerdote, gli raccontò freddamente, come a titolo di cronaca, tutta la miserabile storia della sua anima. Il santo confessore lo ascoltò, ma senza illudersi sui sentimenti reali di questo strano penitente, egli disse: «Amico mio, tornerete a parlarmi domani. Intanto andate davanti all'altare di Santa Filomena per chiedere che ella domandi al nostro Signore la grazia della vostra conversione». Il signor Massiò non protestò, andò subito al posto indicatogli. Ma quale mistero? Le lacrime lo sorprendono senza che egli ne indovini il motivo. Poi, facendosi largo tra la folla, esce piangendo dalla chiesa. Più tardi avrebbe confessato che quelle lacrime erano di felicità. Della passeggiata sui monti del Beaujolais non parlò più. L'indomani il geologo si trovava di nuovo ai piedi del santo. «Padre mio», disse già vinto dalla grazia, «io non credo a nulla. Aiutatemi voi». Il santo lo aiutò così bene che, trascorsi 9 giorni ad Ars, ripartì per Lione conquistato dalla grazia. Ritornato con gli amici che non condividevano le sue credenze, vinse il rispetto umano, racconta Don Raimond che lo aveva conosciuto bene, e si mostrò uno dei più ferventi cattolici della città. Morì davvero cristiano. Verso la metà del novembre 1855 si presentava all'Hotel Pertinan un giovane di Clermont-Ferrand, Sylvano Dutheil. Era accompagnato dalla madre. Entrato nell'armata a 16 anni, Sylvano aveva contratto, in seguito ai suoi eccessi, una malattia di petto che l'aveva obbligato a rientrare nella sua famiglia. Strani avvenimenti lo avevano spinto a fare un viaggio sì lungo e penoso per arrivare fino al servo di Dio. Passando un giorno in una via di Montpellier, racconta fratello Atanasio, aveva visto un ritratto del curato d'Ars e lo aveva schernito. Sua sorella, che lo accompagnava, dopo averlo ripreso, gli disse: «Non potresti forse ottenere la guarigione avendo un po' di fiducia in quell'uomo?» Il giovane rise di cuore. La notte seguente il santo gli apparve tenendo in mano una mela guasta più che per metà. Il sogno lo colpì. Domandò di fare il viaggio ad Ars. All'albergo egli ebbe la fortuna di essere visitato ogni giorno dal servo di Dio. Il mattino di sabato 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, Sylvano, già convertito ed assolto dalle sue colpe, veniva collocato sugli ultimi gradini dell'altare per ricevere la Santa Comunione. Quando fu visto, stremato di forze, la temperatura era gelida, lo portarono nella sagrestia dove c'era una stufa. «Oh, come sono felice!» esclamava. «Mai in vita mia ho provato tanta gioia!» Ricondotto all'albergo, si gettò fra le braccia della madre e le disse piangendo: «La gioia di questa comunione mi fa dimenticare tutte le mie sofferenze. Io non voglio più lasciare quest'uomo, voglio morire qui!» E morì difatti la notte seguente. Nel 1859 un vecchio barcaiolo della Saône, peccatore incallito, fu condotto, quasi suo malgrado, al villaggio di Ars. Vedendo la chiesa gremita di pellegrini, il confessionale assediato di penitenti, comprese i motivi per i quali era stato portato là. Si sfogò in bestemmie e dichiarò di volere partire sull'istante. Gli si obiettò che era tardi e che era necessario passare la notte in paese. Frattanto qualcuno poté prevenire il curato di quell'arrivo eccezionale. Al calar della notte il santo si presentava nella camera dove alloggiava il braccaiolo. «Io non sono venuto qui per fare l'ipocrita», gridò il forsennato. «Lasciatemi tranquillo, non aspetto che di andarmene». «Amico mio», gli rispose dolcemente il curato prendendogli la mano, «voi non volete dunque avere pietà della vostra anima?» E con queste parole semplici lo lasciò. Che sia avvenuto in quella notte non si sa. Al mattino il santo rivide il suo peccatore con gli occhi bagnati di lacrime ed un crocifisso fra le mani. La sua conversione fu completa e meravigliosa. Il curato, secondo quanto si diceva, gli aveva annunciato che confessore e penitente si sarebbero seguiti da vicino nella tomba. E difatti, poco dopo la morte del servo di Dio, si trovò il vecchio barcaiuolo senza vita inginocchiato sul suo letto. Un giorno d'autunno del 1852, Francesco Dorel, gessaio a Villefranche-sur-Saône, seguiva con un suo amico la via d'Ars. Dorel, 32enne e d'aspetto florido, non poteva certo essere confuso coi pellegrini, specialmente se si teneva conto del suo abbigliamento. Aveva gli stivali, un fucile ad armacollo e lo seguiva un superbo cane da caccia. Dorel non ci teneva punto ad essere creduto un bigotto in cerca di confessore. La vigilia un amico gli aveva detto: «Vieni ad Ars domani? Vi è là un prete che fa miracoli e che confessa giorno e notte. Merita di essere veduto. Allora anche tu avresti intenzione di...» «E perché no? Ascolta, io vengo, ma porto il mio fucile e conduco il mio cane. Così, dopo aver visto questo prete meraviglioso, andrò in cerca di qualche anitra nelle paludi della Dom. E tu, se ti va, intanto ti confesserai». I due viaggiatori entrarono nel villaggio al momento in cui il curato, attraversando la piazza fra due file di pellegrini, avanzava lentamente, col suo gesto abituale di benedizione. Francesco Dorel, curioso dello spettacolo, si era frammisto alla folla, ed il santo vegliardo, arrivato davanti a lui, si fermò, fissando ora il cane ed ora il cacciatore. Infine pronunciò queste parole: «Signore, sarebbe desiderabile che la vostra anima fosse bella come il vostro cane». L'uomo arrossì ed abbassò la testa. Il suo cane era rimasto quale Dio lo aveva fatto, fedele ed agile. Egli, cristiano, aveva rovinato nella sua anima l'opera del Creatore. Rifletté a lungo, terrificato dalla rivelazione inattesa. Quindi, affidati fucile e cane a gente del villaggio, entrò nella chiesa e si confessò dal santo. Era così pentito che pianse e, illuminato sul valore della sua anima, sulla vanità del mondo e sulla serietà della vita, voleva farsi religioso. «Andate alla trappa», gli disse con sicurezza il curato d'Ars. Francesco Dorel si presentò infatti a Notre-Dame dell'Aiguebelle il 18 dicembre 1852 e prese l'abito l'anno seguente. 16 anni più tardi faceva la sua professione solenne col nome di frate Arsenio. Morì santamente il 18 dicembre 1888.